GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora morti della strada, due persone residenti in regione, una di Pravisdomini e una di Morsano, hanno perso la vita ieri mattina in un incidente avvenuto in Veneto, a Torre di Mosto, nello schianto tra un furgone e una betoniera. Dalla regione in arrivo ecobonus da 100 milioni per l'efficientamento energetico delle abitazioni, ad annunciarlo il presidente Fedriga. Il caro energia ha fatto sprofondare il settore della panificazione in una crisi mai conosciuta. Si cercano soluzioni per poter tenere aperti i forni. Anche Elettra Sincrotrone, l'anello di luce che si trova sul Carso Triestino, alle prese con il caro energia e bollette che potrebbero triplicare. Una lettera con oltre 600 firme a sostegno delle esigenze dei migranti a Trieste è stata spedita a sindaco e prefetto del capoluogo giuliano. Un simulato per navigazione inaugurato al centro radar dell'Istituto Nautico di Trieste, progetto all'avanguardia, finanziato dalla Regione. Cambia la classifica finale della Barcolana. La squalifica di Arca dei fratelli Benussi fa salire sul podio, dopo Porto Piccolo, ora secondo, anche Maxi Iena. Alle 7:19 minuti e 23 secondi di mercoledì 12 ottobre, un cordiale buongiorno da Francesca Terranova e da Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto iniziamo con il tempo, cielo da poco nuvoloso variabile sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 17,5 gradi, mare mosso con temperatura di 21 gradi e 5 decimi, vento a 35 km orari da est-nord-est, Borino, con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 54 km orari. A Gorizia 15,5 gradi, Udine 14, Pordenone 13, Tolmezzo 12 gradi, Tarvisio 10, Forni di Sopra 8, Sappada 6, Piancavallo 5 gradi e 5 decimi. In quota sull'Ussario e sullo Zoncolan 5 gradi, tornando sulla costa a Lignano e Grado 17 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 19 gradi. Le previsioni su pianura e costa: al mattino cielo poco nuvoloso velato con borino sulla costa, sui monti cielo variabile al mattino, mentre dal pomeriggio sarà nuvoloso o coperto con qualche possibile pioggia sparsa, dal pomeriggio poi cielo variabile su pianura e costa. In apertura, come avete sentito dai titoli, la cronaca nera: due persone residenti in Friuli Venezia Giulia, un 44enne di Morsano e un 19enne di Pravisdomini, hanno perso la vita in un incidente avvenuto ieri mattina in Veneto, a Torre di Mosto, dove si sono scontrati frontalmente una betoniera e un furgone. Il servizio della redazione di Venezia di Lucia Zorzi. Una bicicletta rossa sull'asfalto, un furgone distrutto e un camion betoniera fuori strada. Due vittime, il bilancio del terribile impatto frontale tra i due mezzi, avvenuto in località Staffolo, sulla strada provinciale 57 a Torre di Mosto nel Veneziano. A perdere la vita Vincenzo Santo Viscardi, 44 anni, di Acerra, Napoli, ma residente a Morsano al Tagliamento, e Fayer Benedini, 19 anni, di Frattina di Pravisdomini, che viaggiavano sui sedili anteriori del furgone. Gravissimo il terzo passeggero, Andy Benedini, 30 anni, cugino di Fayer, trasportato in elisoccorso a Mestre, dove è ricoverato in rianimazione. Secondo una prima ipotesi, il camion betoniera si sarebbe scontrato frontalmente con il furgone per evitare l'impatto con un 12enne che stava andando a scuola in bicicletta e doveva attraversare la provinciale per immettersi sulla pista ciclabile. Il ragazzino è sotto osservazione in ospedale a Treviso, ha ripreso conoscenza e anche parlato al telefono brevemente con i fratelli. Ho visto la scena, ma non so ancora i fatti, non so ancora quello che è successo di preciso. Solo che è stato quasi un miracolo. Per fortuna sì, non è in situazioni gravi. Illeso il conducente della betoniera. Sono i carabinieri di Porto Gruaro a vagliare la dinamica dell'incidente, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia. Il servizio che abbiamo appena sentito è della collega del Veneto Lucia Zorzi. La regione punta a rendere sempre più sostenibili da un punto di vista energetico le abitazioni del Friuli Venezia Giulia, per questo ha annunciato l'arrivo di un nuovo ecobonus. Diventa ancora più conveniente rendere efficiente la propria casa dal punto di vista energetico. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni per incentivare interventi mirati a ridurre il consumo energetico. I contributi riguardano prime e seconde case e condomini e possono essere sommati alle detrazioni già previste a livello nazionale per abbattere il costo per l'installazione di impianti come pannelli fotovoltaici. Il presidente Fedriga. È una misura strutturale importante perché andiamo a dare una risposta che va incontro al caro energia che in questo momento i cittadini stanno vivendo, perché se riusciamo a fare questa transizione che porti verso un autoapprovvigionamento energetico, vuol dire ridurre drasticamente le bollette che i cittadini dovranno pagare. I dettagli della misura saranno messi nero su bianco in una legge che il Consiglio regionale dovrebbe approvare all'inizio del prossimo anno, ma sarà retroattivo in modo tale che gli interventi di fine 2022 possano rientrare nei benefici della norma, si legge nel comunicato della Regione. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta nell'ambito di un pacchetto di ulteriori 165 milioni da aggiungere all'assestamento di bilancio autunnale, destinati in prevalenza a fronteggiare l'aumento dei prezzi di energia ed edilizia. Risorse che andranno anche ai cantieri VAI, alle case di riposo, alle scuole e alle attività culturali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste informa che, in base ai recenti decreti governativi, gli impianti di riscaldamento possono rimanere accesi in tutto il territorio comunale dal 22 ottobre del 2022 al 7 aprile del 23 per un massimo di 13 ore al giorno, comprese tra le 5 e le 23. La temperatura nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare i 17 gradi centigradi più 2 di tolleranza per gli edifici adibiti a attività industriali, artigianali e assimilabili. Invece 19 gradi più 2 di tolleranza per tutti gli altri edifici. Nel rimanente periodo annuale, precisamente dall'8 aprile al 21 ottobre del prossimo anno, gli impianti possono essere attivati senza altre autorizzazioni specifiche, solo in presenza di particolari situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio. L'aumento delle bollette energetiche ha fatto piombare il comparto dei panificatori in una crisi che le associazioni di categoria definiscono senza precedenti. In altre regioni c'è già chi è sceso in piazza a protestare. In Friuli Venezia Giulia si sta facendo fronte comune coi sindacati per trovare possibili soluzioni, ma le previsioni sono preoccupanti. Da bene di prima necessità a bene di lusso, sempre più caro e con sempre più rari produttori, è il risvolto della medaglia dei rincari energetici e delle materie prime nei panifici artigianali del Friuli Venezia Giulia, dove il prezzo del pane da inizio anno è già lievitato, si stima tra l'8 e il 12%, meno che nel resto d'Italia, ma potrebbe ancora salire, rilevano le associazioni di categoria, che parlano di scelta obbligata per restare in piedi. I panificatori, spiegano, stanno cercando di resistere, nessuno azzarda previsioni e nelle 450 imprese della regione, per la gran parte a conduzione familiare, c'è preoccupazione anche per i 2.000 dipendenti. Il presidente dell'Unione Regionale Panificatori, Edvino Ierian, evidenzia una stima allarmante. Entro fine anno noi rischiamo, almeno stimiamo noi, un 10% di chiusure, 200 famiglie senza lavoro, una cinquantina di imprese che potrebbero chiudere. Una crisi senza precedenti dal dopoguerra ad oggi e che potrebbe aggravare la tendenza alla riduzione dei forni in atto da tempo, sottolinea il portavoce della categoria. Non aiuta la concorrenza della vicina Slovenia, per la quale il problema energetico pesa di meno, aggiunge. Intanto, per risparmiare, salvando imprese e occupati, ci si riorganizza con l'attività, dalle chiusure pomeridiane a quelle alternate e, dove possibile, si taglia su tutto, insegne, illuminazione, anche frighi, rinunciando a vendere qualche prodotto come il latte. Qualcuno è passato al GPL o è tornato al gasolio o pensa di investire in un forno a pellet, spesa per i più insostenibile. C'è ancora una tenuta occupazionale anche sul fronte industriale dei prodotti lievitati, dove poche finora sono le richieste di cassa integrazione, ma lo scenario potrebbe presto cambiare, fanno sapere i sindacati, mentre si sta facendo fronte comune per trovare soluzioni condivise. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche le realtà scientifiche non sono indenni dagli effetti del caro bolletta. I vertici di Elettra Sincrotrone, l'anello di luce che si trova sul Casso Triestino, prevedono che la bolletta annuale di luce e gas quasi triplicherà, passando dagli attuali 7 milioni a quasi 20 milioni di euro. Da qui l'appello al Ministero dell'Università e Ricerca per trovare una soluzione. Intanto è stato anticipato il fermo della macchina a fine anno, un provvedimento di routine e non di chiusura, specificano i vertici, per consentire la manutenzione ma soprattutto al progetto di riqualificazione del sincrotrone, che diventerà la nuova sorgente di luce elettra molto più brillante e competitiva a livello internazionale. Progetto di riqualificazione straordinaria che dura alcuni mesi e che vedrà impegnato tutto il personale del centro di ricerca. Ridurre le temperature, rimodulare gli orari con pause aggiuntive o utilizzo del part-time, distribuire gratuitamente le bevande calde e mettere a disposizione dei lavoratori vestiti caldi compatibili con l'attività svolta. Sono alcune delle iniziative che le aziende possono adottare d'accordo con i lavoratori per ridurre i costi esorbitanti delle bollette. Lo prevede l'intesa quadro firmata a Pordenone nella sede di Confindustria Alto Adriatico tra industriali e sindacati. I dettagli saranno definiti a livello aziendale perché ogni fabbrica, ogni ufficio, ogni mansione fa storia a sé. Ai segretari regionali confederali di CGIL, CISL e UIL piace l'aspetto della condivisione con i comitati aziendali che erano stati costituiti per la prevenzione del Covid e che ora trovano una nuova ragione d'esistere. L'accordo mira ad aiutare le imprese a rimanere competitive perché con questi costi si rischia di produrre in perdita. Dopo aver vinto la battaglia legale sui licenziamenti in Varsi, le segreterie territoriali di FIOM, FIM e UILM si sono confrontate con i rappresentanti di Confindustria sulla situazione delle ditte in appalto che operano con il colosso finlandese. È stata rappresentata la difficoltà dell'indotto, già colpito da alcune richieste di cassa integrazione. Secondo i sindacati, la filiera dell'appalto, che conta centinaia di lavoratori, deve rimanere all'interno di un ragionamento di sistema anche attraverso il supporto degli istituzioni, posizione in parte condivisa da Confindustria. Secondo la nota sindacale, le istituzioni vanno coinvolte a tutela dell'occupazione e in difesa del know-how delle aziende dell'indotto Wärtsilä. Migranti abbandonati a se stessi in Piazza della Libertà a Trieste, più di 600 le firme raccolte in due giorni per l'appello al sindaco e al prefetto lanciato da un gruppo eterogeneo di cittadini del mondo della scienza e della cultura. Si legge nell'appello: decine di uomini, donne e ragazzi dormono di notte al riparo di una piccola tettoia sulla scalinata della sala Tripkovic. Li chiamiamo migranti, ma si tratta di persone che hanno diritto a un posto di accoglienza. Che facciamo? Perché il problema non è il decoro della piazza, ma l'abbandono delle persone. Il decoro è umanità. Una delle promotrici dell'iniziativa è la ricercatrice Loredana Casalis. Sentiamola. Questo tamtam è nato perché abbiamo visto con i nostri occhi ogni giorno situazioni sempre più complesse di stranieri che dimoravano senza un tetto, al freddo, nelle zone limitrofe della stazione. E ci siamo chiesti perché non si facesse niente per un'accoglienza diretta e immediata di queste persone. Di fatto le associazioni non riescono più a far fronte da sole a questa emergenza che sta diventando sempre più importante. Stiamo facendo anche una violazione di legge, non solo di diritti umani. Le strutture ci sono e vanno solo messe a disposizione, rese disponibili. Chi volesse contribuire firmando, cosa può fare? Al piccolo verrà pubblicato un link a una pagina che raccoglierà delle firme. E oggi siamo a 613 firme, ma il numero appunto sta aumentando ora per ora. Ho visto tra le prime firmatarie Ariella Reggio, Paolo Rumiz, Nicoletta Romeo. Sì, ce ne sono tantissimi del mondo della cultura, del mondo della scienza, del mondo della sanità, del mondo dell'imprenditoria. Ci sono tutte le espressioni della nostra società triestina, tutte persone che amano Trieste, che credono in Trieste e che vogliono onorare insomma la storia di Trieste e che si impegnano a mantenere e promuovere un vivere solidale. Devono rispondere in concorso di associazione delinquere finalizzata alla commissione di tortura, sequestro di persona, scopo di estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina due cittadini bengalesi di 32 e 24 anni che sono transitati dall'hotspot di Lampedusa a settembre. I due sono stati identificati nel corso di indagini condotte dalla questura di Agrigento. Uno degli indagati è stato fermato appunto ad Agrigento, l'altro a Gorizia, dove nel frattempo era stato trasferito. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dal GIP. Il progetto per la riqualificazione della piazza transalpina di Gorizia in chiave 2025, capitale della cultura, sta alimentando un ampio dibattito tra gli architetti italiani e sloveni sulle modalità di realizzazione. Vediamo quali sono le posizioni dei vari soggetti in campo. Lavori in corso in piazza Transalpina a Gorizia. Il progetto dello studio Baglivo Negrini, che nel 2020 aveva vinto il concorso internazionale per la riqualificazione, è risultato poi irrealizzabile nella parte principale, che prevedeva due piani di accesso, di cui uno interrato. Il gruppo europeo di cooperazione territoriale e i comuni di Gorizia e Nova Gorizia hanno quindi deciso di procedere togliendo quell'elemento. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Abbiamo modificato il progetto, ormai è definito anche nel dettaglio, lo porteremo sia a Gorizia che a Nova Gorizia nei rispettivi luoghi deputati, mi riferisco alla Commissione Consiliare Urbanistica e al Consiglio Comunale. Obiettivo, entro la fine del 2024, aver realizzato sia la riqualificazione della piazza e soprattutto anche il manufatto di 400 metri quadri che sarà esattamente a cavallo del confine. Nello scorso aprile il GECT ha quindi formulato un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica. Romina Cocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Al nostro avviso, per manifestazione di interesse hanno risposto 5 gruppi di architetti misti italiano-sloveni. Fra questi 5 gruppi contiamo di selezionare la ditta che porterà a termine tutta la gara. Il 20 settembre scorso l'Ordine degli Architetti di Gorizia ha richiesto un incontro al GECT per dare il proprio contributo, ma non ha ottenuto risposta. Alcuni architetti non condividono il percorso realizzativo intrapreso. Sentiamo l'architetto Romano Schnabel. Il primo concorso è sicuramente fallito dal momento che un concorso prevede che il vincitore venga premiato con la realizzazione dell'opera. Uno studio di fattibilità vedo parecchie difficoltà. Ad esempio, non mi è assolutamente chiaro che si possa costruire un'architettura a cavallo del confine. Con un monumento così bello come la stazione, forse sarebbe il caso di pensare più che a costruire cose nuove, a usare le cose che ci sono, riqualificandole, valorizzandole. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Contributi alle piccole e micro aziende disposte ad attivare contratti di lavoro almeno semestrali. Si tratta di 800 euro per ogni contratto di apprendistato per studenti al terzo anno delle superiori. La Camera di Commercio di Pordenone Udine ha messo a disposizione 50.000 euro, ma la scadenza del bando è molto vicina, il 31 ottobre. Il contratto previsto è quello di apprendistato duale, ancora poco sviluppato in Italia, ma che sta prendendo sempre più piede come strumento di transizione scuola-lavoro. Ce ne parla la referente della Camera di Commercio di Pordenone, Daniela Morgante. Il contratto di apprendistato duale è il cosiddetto sistema alla tedesca, ovvero un'alternanza abbastanza consistente tra presenza in aula presso l'istituto, presso l'ente di formazione e la presenza in azienda, quindi con parecchie ore dell'allievo svolte in azienda. Durante questo percorso l'azienda ha, diciamo, degli obblighi verso l'allievo, che sono proprio quello di formarlo e quindi di fargli raggiungere delle competenze tecniche che poi al rientro a scuola vengono valutate. C'è un limite di età per partecipare? Il contratto viene applicato normalmente ai ragazzi e ragazze del terzo anno dei percorsi di scuola professionale. Intendiamo, diciamo, i percorsi cosiddetti prima formazione, cioè il percorso da acconciatore, da estetista, da meccanico, il controllo numerico, quelli che vengono svolti presso gli enti di formazione, che sono, diciamo, una gestione regionale come sistema, no, scolastico. Altrimenti possono essere applicati ai ragazzi che frequentano i percorsi ITS, cioè gli istituti tecnici superiori, ovvero quei bienni che vengono svolti dopo la maturità. Come si fa a partecipare a questo bando? L'azienda deve compilare la domanda, che è presente sul nostro sito ed è una cosa molto semplice, e poi presentare insieme alla domanda il contratto. Dopodiché, se tutto è in regola, viene già concesso il finanziamento, quindi il passo successivo è ricevere il bonifico sul proprio conto. Due istituti di Gemona saranno i primi in Friuli interessati ai lavori di adeguamento antisismico secondo le ultime norme. Uno di questi, l'Istituto Magrini Marchetti, da anni è impegnato in progetti didattici sulla prevenzione del rischio sismico. Partiranno da due istituti di Gemona, il Magrini Marchetti e il Raimondo Daronco, i lavori di adeguamento sismico ai nuovi standard del 2018, che coinvolgeranno progressivamente tutti gli istituti dell'ex provincia di Udine grazie ai fondi del PNRR. Il cantiere, da oltre 25 milioni, vedrà la luce entro fine marzo. Lo conferma l'ente di decentramento regionale di Udine, responsabile dell'edilizia scolastica delle secondarie di secondo grado. Proprio al Magrini Marchetti, da oltre 10 anni gli studenti sono impegnati in progetti didattici sulla prevenzione del rischio sismico. Per esempio, sanno misurare i microtremori del terreno con strumenti di alta precisione. Pier Maria Beccari, docente di scienze. I ragazzi le abbiamo fatte qui attorno alla scuola e negli anni scorsi le abbiamo fatte in tutte le scuole medie. Esistono delle onde sopra il suolo e studiando appunto queste onde è possibile creare degli studi che permettono di prevenire appunto il crollo degli edifici. La supervisione scientifica dei progetti è dell'OGS, Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. Carla Barnaba, ricercatrice dell'OGS. Cerchiamo di fornire ai ragazzi anche delle conoscenze che vanno al di là della pericolosità sismica del territorio in cui vivono, cercando di farli capire quanto queste elaborazioni possono essere sfruttate un domani, soprattutto in ingegneria sismica, data science, elaborazioni matematiche e statistiche sulla fisica dei terremoti. Nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico previsti a Gemona, verrà realizzata con fondi regionali una cosiddetta scuola polmone di supporto per potenziare l'offerta didattica e ospitare temporaneamente i ragazzi, come accade già a Udine con gli istituti Zanon, Malignani e Marinelli. Proprio allo scientifico del capoluogo friulano si apre nelle prossime ore il cantiere dei lavori. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato inaugurato un nuovo simulatore di navigazione nel centro radar dell'Istituto Nautico di Trieste, un progetto all'avanguardia. Sentiamo. In plancia a comandare una nave virtuale. Nel centro radar dell'Istituto Nautico di Trieste è stato inaugurato il nuovo simulatore di navigazione, un progetto all'avanguardia finanziato al 100% dalla Regione, che promette di dare vita a Trieste a uno dei centri di certificazione più importanti dell'Adriatico. Il simulatore è dedicato agli allievi dell'ultimo anno dell'Istituto Nautico, a quelli dell'Accademia Nautica, ma anche a tutti i dipendenti di società di navigazione che desiderano conseguire o rinnovare una certificazione specifica. Uno strumento sofisticato, innovativo e completo. Bruno Zweck, direttore generale dell'Accademia Nautica dell'Adriatico. Noi qui possiamo caricare 20 tipi di navi, da passeggeri, ro-ro, traghetti, navi portacontainer, rimorchiatori, e possiamo configurare tutti i porti che vogliamo. Il software è stato costruito con l'obiettivo di ottenere la massima aderenza possibile alla realtà, con test condotti a bordo delle navi. C'è un po' di rollio, non è il pavimento che baglia, ma ovviamente la simulazione sullo schermo, però vi assicuro che se uno ha un po' di mal di mare, anche simulando gli viene. Attualmente sono attive 10 postazioni per altrettanti allievi. La più grande riproduce la plancia di comando con finestre, timone e rilevatori. Si possono simulare tutti gli scenari esistenti, ma ci si può dedicare anche all'immaginazione. Andrea Marchesi, presidente del CTS dell'Accademia Nautica di Trieste. È una nave a piacere anche in costruzione, anche inesistente, perché si può fare anche con i dati della nave che verrà, inserire all'interno di questo simulatore e vedere come funziona. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno Udine accoglierà in Prosit la kermesse enogastronomica per la valorizzazione dell'enogastronomia regionale. Per 5 giorni il centro di Udine si trasformerà nella vetrina dell'enogastronomia regionale e non solo. Per il 3° anno l'edizione della kermesse di Emprosit si terrà nel capoluogo friulano dal 19 al 24 ottobre, con un calendario fitto di appuntamenti, oltre 120, alla scoperta dei migliori chef, piatti, prodotti, vini e abbinamenti. Un'edizione particolare che intende rilanciare la cucina dei migliori chef in abbinamento ai vini della regione. Un evento enogastronomico realizzato grazie al consorzio di promozione turistica del Tarvisiani in collaborazione con la Regione, Promoturismo FVG e il Comune di Udine, capaci di mettere in relazione temi quali la cultura culinaria, la tradizione vinicola regionale e la conoscenza delle materie prime della cucina. Enprosit vestirà Udine con i rossi vivi del Sud America, i toni insondabili dell'Asia estrema, il fascino educato della vecchia Europa, i profumi arcobaleno dell'Anatolia, mescolandoli all'Italia e al Friuli Venezia Giulia, perché ognuno tiri fuori dall'altro uno spirito mai immaginato prima. Degustazioni guidate con tema dei vini bianchi, laboratori dei sapori, un viaggio fra i profumi e i sapori del nostro paese, in cui verranno proposti abbinamenti cibo-vino anche durante i laboratori e le master class, con escursioni tra i prodotti del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale e eventi speciali che quest'anno vedranno dei temi centrali, quello del tempo delle lievitazioni. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di orti biologici. Sono molti gli aspetti che un orticoltore biologico di successo deve tenere presente, ad esempio per far quadrare i conti. A Poincico di Zoppola, nella società agricola Ecco Qua, continuano gli incontri formativi del progetto Voglia di Bio sul tema delle orticole in pieno campo ed in coltura protetta. L'inizio è tra poco, alle 9. Una delle relatrici arriva dal Veneto, Piove di Sacco, e Sara Tognato, presidente di una cooperativa sociale agricola. Durante il lockdown ha imparato a tenere meglio i conti e racconterà la sua esperienza. Sentiamola. È proprio il tentativo di trovare anche degli strumenti informatici per inserire le voci di costo variabile e fisso e quanto si vuole tentare, ecco, di realizzare poi alla fine dell'anno come utile, e appunto cercare di valorizzarlo attraverso le proprie produzioni. Voi producete ortaggi biologici, 55 varietà all'anno. 55, sì. Come sta andando adesso? Abbiamo dei dati nazionali e regionali che ci dicono che le vendite sono crollate ultimamente. Ma io non userei la parola crollato. Noi stiamo rilevando, sì, una piccola flessione negli accessi al punto vendita della nostra azienda. Non parlerei, ecco, di dati criticissimi. Io ho letto degli interventi che valutavano il calo del biologico attorno al 4%, che però, insomma, comincia a avere un peso su un settore che invece nell'ultimo decennio era sempre in crescita, anche a volte a due cifre. È preoccupata? Allora, più che altro, insomma, all'interno della nostra realtà stiamo mettendo tante risorse di energie di testa, ecco, anche di fantasia, per provare ad offrire dei servizi aggiuntivi ai clienti, provare ad aprire nuove linee di vendita. Per esempio, stiamo tentando di relazionarci ad alcune aziende, in particolare una, ecco, molto grande che abbiamo vicino a noi, cercando di proporci all'interno del loro sistema di welfare aziendale con delle spese, appunto, fresche, locali, biologiche, etiche, perché noi siamo un onus di diritto, da consegnare direttamente in azienda. Stiamo tentando, ecco, di aprire nuove modalità. Epilogo clamoroso della 54esima edizione della Barcolana. La seconda classificata, Arca dei fratelli Benussi, è stata squalificata per comportamento antisportivo ed è stata tolta dalla classifica generale. La giuria internazionale della Barcolana ha deciso poi di aprire anche un altro procedimento, squalificando anche l'imbarcazione Way of Life per effetto delle decisioni della giuria internazionale. Alle spalle della vincitrice Deep Blue cambiano quindi il secondo posto, che viene assegnato a Porto Piccolo, e il terzo, che va a Maxi Iena. I fatti contestati si riferiscono a un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica durante i festeggiamenti del post regata. Una persona sarebbe stata allontanata dalla festa organizzata dall'equipaggio di Arca da parte del personale incaricato alla sicurezza. La squalifica per un fatto avvenuto ben oltre la fine dell'evento sportivo non deve meravigliare, poiché lo sport della vela, essendo di matrice anglosassone, considera anche fatti successi prima e dopo la regata. Inoltre, il pronunciamento della giuria non prevede ulteriori informazioni sulle motivazioni della squalifica. Benussi, molto amareggiato, sta valutando assieme ai suoi legali un ricorso contro questa decisione. L'idea sarebbe di rivolgersi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. E alle 7:47 7, la rassegna stampa. Partiamo dal Piccolo di Trieste, che oggi apre con il provvedimento della Regione contro il caro bollette. Ecobonus da 100 milioni di euro, fondi a chi installerà impianti fotovoltaici a casa, la norma al via dal 2023, ma con effetto retroattivo. Al centro pagina la fotonotizia della Barcolana con l'equipaggio di Arca che saluta e applaude all'arrivo della regata. Il titolo: Arca e Way of Life squalificate, podio rivoluzionato. Di spalla una notizia di esteri che ci riguarda molto da vicino: nucleare, Lubiana è pronta al referendum sul raddoppio di Krško. Il governo sloveno apre referendum sulla realizzazione del progetto Krško 2, ora la centrale è spenta per manutenzione. Dai richiami di cronaca in prima, il rogo al Burger King partito dalle friggitrici, 50 turisti spostati in un hotel. E poi l'appello di intellettuali e mondo scientifico, un letto per i migranti, qui si pubblica tutta la lettera che è un appello appunto al prefetto e al sindaco. In taglio basso la cultura: così due secoli fa i dottori di Trieste lottavano contro i ciarlatani. Il libro si intitola Medici dei poveri e farmacisti contro gli antenati dei Novax. L'autrice è la storica Diana De Rosa. Ecco, bonus regionale da 100 milioni per il fotovoltaico, contributi a chi installerà impianti nelle abitazioni, è il titolo principale della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, di cui vi abbiamo già riferito. Sotto un'immagine del terribile schianto di ieri nel Veneziana, dove sono morti due operai che andavano al lavoro. A piedi pagina l'annuncio della nuova edizione di Ein Prosit, che porterà 70 chef da tutto il mondo a Udine. In taglio alto invece una notizia di politica con l'ipotesi Morettuzzo per le regionali del prossimo anno, un'alternativa al centrodestra, scrive il quotidiano di Viale Palmanova. Accanto un richiamo a cui si riporta l'amarezza dei risparmiatori per la pena dimezzata a Zonin nel processo per il crack delle banche venete. Sulla prima pagina del Gazzettino invece due notizie per certi versi simili: scuole ancora nel caos, mancano 300 bidelli e bufera alla Sores, tecnici al posto degli infermieri, personale non sanitario per coprire i buchi in organico, sindacati in allarme. Il Piccolo di Gorizia in prima pagina: grazie al bando Borghi i primi 9 milioni di euro per Castello e Galleria. L'ente di decentramento regionale ha pubblicato i documenti di indirizzo per la progettazione di opere strategiche in ottica del 2025. Il sindaco Ziverna dice si farà il massimo per accelerare i tempi e accogliere così i turisti e gli eventi. Sempre tra i richiami di cronaca in prima pagina l'indagine della Procura sui 4 casi di legionella alle Terme Romane. La procura indaga, uno dei casi ha avuto anche esito mortale, le persone coinvolte avevano frequentato le Terme Romane. La società non commenta. Nell'articolo si legge l'intervista alla nuova procuratrice capo Lucia Baldovin. E poi una pista sui furti in una dozzina di abitazioni tra Romanza e Fogliano avvenuti fra domenica e lunedì. Indagano i carabinieri, il metodo classico dei fori su porte e serramenti per entrare si abbina però a modalità più temerarie rispetto al passato. Infine il Kinemax in difficoltà: dopo la pandemia la gente esce meno e domenica sono stati staccati solo 200 biglietti, ma c'è attesa per l'arrivo delle novità. Anche il dorso del Gazzettino di Pordenone ha in prima pagina la notizia della morte di ieri in Veneto di due operai residenti in regione, così come l'ecobonus da 100 milioni della regione per sistemare gli impianti e il protocollo sindacati Confindustria sulla crisi energetica nelle fabbriche. Nelle colonne di sinistra un richiamo alla pandemia con gli ospedali che riaprono i reparti e un altro al caso dei fondi per i trasporti green, cui il Friuli Venezia Giulia non può accedere in quanto riservati alle regioni a statuto ordinario. A piedi pagina spazio anche per il calcio di Serie C con il Pordenone che ha ritrovato, scrive il giornale, il miglior Burrai di sempre. Nelle pagine interne il Messaggero Veneto di Pordenone invece si occupa delle istituzioni con Candotti verso la guida del consorzio universitario e di come sta per nascere nella destra Tagliamento una triennale in design del prodotto. Il caso Regeni a pagina 21 del Corriere della Sera e a pagina 18 di Repubblica. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha aggiunto nella riforma del codice di procedura penale una norma sblocca processo che potrebbe intercettare finalmente i funzionari egiziani sotto accusa per l'omicidio di Giulio. Sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. L'aggiunta all'articolo 169 del codice, quello che regola le notifiche a un imputato che si trova all'estero, ora prevede anche la notifica sul luogo di lavoro dell'imputato. Sono 69 le nuove figure professionali ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere per lavorare a bordo delle sue navi. Nello specifico la Compagnia Italiana di Navigazione ricerca 18 addetti alla reception accoglienza, altrettanti all'intrattenimento, 18 fotografi e 15 consulenti di viaggio da inserire a bordo dopo un periodo di formazione specialistica. Le offerte di lavoro attivate dai servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono accessibili fino al 19 ottobre prossimo. Un'occasione per confrontarsi su come la violenza di genere venga sottovalutata e fraintesa in Italia è il nuovo libro inchiesta Violenzissima, le scuse e i pregiudizi che assolvono i violenti, scritto da Ilaria Bonuccelli, giornalista del quotidiano Tirreno, che presenta questo suo libro alle 18 alla libreria Friuli in via dei Rizzani a Udine su invito dell'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia. Dialogano con l'autrice Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto, e Rosi Toffano, presidente dell'Associazione 03. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Daniela Sossi, per la parte tecnica Vasia Crismacic e Maurizio Mona, da Francesca Terranova e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.